come l'oracolo da dove professiamo. L con libertà nell'anima viviamo. C come le cose che crediamo. E come energia che sprigioniamo. D come da forza la densità del cranio. O come l'orgoglio di Mr. Origami. Dolce Do, Dolce Do, Dolce Do, Do, Do. Resta ricordo di ogni singolo istante, ogni singolo giorno. Io sempre cancia nella tasca e braga la scagassa. L'organizzazione con l'anima che rasca. Lascia il polmone e tu fidati che spacca. Lo cedo ma la facca è ancora sulla traccia. Girava le carugi, caramba fuggi fuggi. Liscio come fiugi, documento ogni 5 minuti. Tutti corrotti e bastardi. E noi sempre più testati. Uomo le ricordo tutte, centinaia di aldi mute. La sagra più sperduta, la colonia delle cruche. Shuri con Ficken, sono in bad trippin'. Dimmi tuo fratello quante volte ho fatto un chicken. Resta la forza, è sempre la stessa. Si moltiplica l'ennesima, non si dimezza. Come danno che evochiamo, o come l'oracolo da dove professiamo. L con libertà nell'anima viviamo. C come le cose che crediamo. E come energia che sprigioniamo. D come da forza la densità del cranio. O come l'orgoglio di Mr. Origami. Dolce Do, Dolce Do, Dolce Do, Do. E siamo ancora qua. Sei Origami, fanti uno, motherfucker, for life. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Passano gli anni e siamo ancora qua. Non ho mai smesso di sperare, sono ancora qua. Anche se divisi, ma da faca nelle crisi. Ritrovano il buon senso contornato dai sorrisi. Ormai si sa che la vita è una lurida puttana. Più la tratti male, più lei ti ama. C'è chi infama, chi fa il figlio di puttana. In questa vita insana non si sa la trama, tranne la madama. Vogliono ingabbiarci, interrogarci e poi picchiarci. Mi dispiace, ma sul fatto non potrete mai trovarci. Può darsi che un giorno io smetta. Ora vivo per la ma la vita e quindi non ho fretta. Fra un tiro di Zatla e qualche panetta, penso cosa ha fatto fino ad oggi in questa vita perfetta. Le esperienze non mi mancano, le strade non mi stancano. I progetti si rimandano, ma i nostri cuori rimangono. Che evochiamo, o come l'oracolo da dove professiamo. L con libertà nell'anima viviamo. C come le cose che crediamo. E come energia che sprigioniamo. D come da forza la densità del cranio. O come l'orgoglio di Mr. Origami. Dolce Do,